sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 11 febbraio, il sole in regione sorto alle 7.17 tramonterà alle 17.27. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. Come sta andando la pesca in Friuli Venezia Giulia, un comparto del settore primario che entra nella sfera di interesse di Vita nei Campi? I bucaneve di San Valentino è il titolo del corsivo di Licio Damiani che vi riproponiamo oggi. La soia con uno sguardo particolare a quella edamame per uso umano nella rubrica del biologico. Seconda puntata dedicata ai materiali per i recipienti della fermentazione in cantina. La secolare roverella di Medana nella rubrica dei grandi alberi del Friuli Venezia Giulia. Tempo di carnevale, tempo di frittelle, oggi nello spazio della gastronomia, quelle a base di patate. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Occupandosi del settore primario, Vita nei Campi deve parlare anche di pesca e oggi lo facciamo con Sandro Caporale, presidente della cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare. Subito, come sta andando la pesca? Ma sta andando, diciamo, bene, anche se dobbiamo dire che di questi ultimi anni, per quello che sono riuscito a capire, io sono presidente da poco più di 6 mesi, il pescato in laguna è piuttosto a calare, anche se tirando il totale dell'anno 2023 le quantità sono state più o meno quelle dell'anno 2022, circa 7.200-7.500 quintali di pescato fresco prodotto che viene venduto al mercato ittico di Marano. Ecco, come si vende il pesce? Il prodotto pescato del giorno viene conferito dai pescatori dalle 8 a mezzogiorno, quindi loro escono di notte, vanno a pescare, poi alla mattina portano il pesce in cooperativa. Gli addetti della cooperativa lo magazzinano, lo pesano, lo preparano per un'asta ultra decennale che viene svolta nel pomeriggio, alle 2 del pomeriggio, dove i grossisti, piuttosto che gli ambulanti o anche i ristoratori, comprano il pesce con un'asta un po' particolare che io ho scoperto essere a ribasso, quindi l'astatore, che è un pescatore, un collega del consiglio di amministrazione incaricato di questo, parte da un prezzo e va giù fino a scendere finché c'è un acquirente. Se il prezzo cala tanto lo ritira. E quest'anno per la vostra cooperativa ci sono delle novità? Sì, la novità è che dopo un percorso un po' di definizione di quello che erano gli assetti organizzativi, anche economici e finanziari della cooperativa, per cui sono anche lì è stato chiamato a fare il presidente di questa cooperativa, abbiamo avviato la vendita ai privati, come vendita accessoria dopo l'asta, del pesce pescato del giorno a cassetta. Quindi qualsiasi cittadino locale, ma anche di tutto il Friuli, può venire a Marano martedì e giovedì pomeriggio e dalle 15.45 alle 16.30 può comprare, non all'asta, a prezzo che andiamo a esporre, una cassetta di pesce. Massimo una cassetta. Beh, diciamo, regolamento, abbiamo concordato, massimo due cassette per persona che si reca al mercato. A Marano c'è qualche giovane che ricomincia a fare il pescatore, o meglio si avvicina alla professione? Sì, ci sono giovani. Non tantissime, ma ce ne sono, figli di pescatori che continuano l'attività del nonno piuttosto che del genitore, ma anche imbarcati, i dipendenti che lavorano sulle barche che vanno a fasolare piuttosto che a pescare il prodotto del giorno, e diciamo c'è un gruppetto di persone che ovviamente sono giovani perché l'attività è pure faticosa, quindi non è un lavoro per persone anziane o persone che hanno dei problemi di salute, cioè, bisogna essere in forma, come si dice. La pesca dà ancora reddito? La pesca dà ancora reddito. E, diciamo, per quanto riguarda i fasolari c'è un consorzio che lavora un po' sul prezzo, sul venduto, e quindi cerca di tenere, ed è riuscito a farlo in modo molto buono, tenere sul prezzo. Sul pescato del giorno è un po' più difficile perché ci si rivolge a grossisti, a commercianti, e quindi no, il prezzo viene fissato da mercati un po' più ampi, tipo quello di Chioggia o di Venezia, però diciamo che poi anche grazie ai benefici fiscali che hanno i pescatori riguardo alla tassazione è ancora un'attività profittevole. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani raccolti nel volume Vita nei campi, storia, memorie e leggende della campagna, edizione Società Filologica Friulana, oggi vi proponiamo i Bucaneve di San Valentino, in onda il 14 febbraio del 1993. La festa di San Valentino, di larga presa popolare, forse più di altre documenta l'alterazione e lo stravolgimento portati alle antiche tradizioni dai nostri anni frenetici. La solennità cade nel periodo in cui la natura comincia a dare i primi segni dal letargo invernale. Preannunci dunque di primavera. Per San Valentin la lodola fa il nidin, recita un proverbio veneto. Nel Medioevo si riteneva che il 14 febbraio i volati cominciassero ad accoppiarsi. I pani a forma di otto, distribuiti a Udine alla sagra di Borgo Pracchiuso, sono una stilizzazione del serpente, antico simbolo di fertilità. Nacque così il detto: a San Valentino ogni Valentino sceglie la sua Valentina. E allora il martire, decapitato secondo la tradizione intorno al 280, che in Friuli era venerato come protettore dal terribile Malcaduco e diventato il patrono degli innamorati. Da qui l'usanza dello scambio di bigliettini teneri e spiritosi o di piccoli pegni d'amore affidati ai primi germogli del prato. Poi tutto si è fatto stentoreo, gridato, superficiale. Al segno limpido del sentimento sono subentrate le stramberie costose inventate da un mercato sempre più sfrenato e ingombrante. E anche la festa di San Valentino è finita nelle trame coinvolgenti di un consumismo esasperato. Non si vuole con questo demonizzare la nostra cosiddetta civiltà dei consumi, che risultati positivi ne ha dati. Basterebbe pensare al cambiamento delle condizioni di vita di cui hanno beneficiato anche le genti dei campi. Ma si è dimenticato che l'incremento dei consumi andava visto in funzione dello sviluppo totale della persona umana. È diventato invece fine esclusivo, feticcio, pseudovalore. Adesso che la civiltà, fondata su presupposti così effimeri, va sgretolandosi, emergono la confusione, il disorientamento. Per esorcizzare l'andazzo, ricordiamo una gentile credenza diffusa un tempo nelle campagne italiane. Consigliava ai giovani di cogliere a San Valentino, di prima mattina, sulle rive dei fossi, un mazzetto di bucaneve appena spuntati e di gettarlo a occhi chiusi in un corso d'acqua. Se la corrente avesse trasportato i fiori lontano, l'innamorato o l'innamorata avrebbero raccolto il messaggio legando per sempre il cuore all'offerente. Perché non provare? Con Cristina Micheloni prosegue la rassegna dei legumi da granella, la loro storia e proprietà. Parlando oggi di soia, ci regala anche un'interessante informazione su una varietà del tutto speciale, quella edamame, ottima per l'uso umano. Continuando con i legumi, oggi ne affrontiamo uno ben noto ai friulani. Mi riferisco alla soia, addomesticata in Cina circa 3.000 anni fa, da lì poi ben radicata in Giappone e Corea, buona parte del Lontano Oriente, è arrivata in Europa in occasione dell'Expo di Vienna nel 1873, come curiosità del padiglione giapponese. Arrivò, attraverso il Pacifico invece, pure nelle Americhe, dove trovò fortuna come alimento zootecnico. Qui la differenza sostanziale: in Oriente era e in buona parte è cibo per umani, in Occidente è per definizione la commodity per la zootecnia industriale. L'immagine comune della soia è negativa proprio per questo: commodity con prezzo definito alla borsa di Chicago, carburante della zootecnia industriale, causa della deforestazione amazzonica. Tutto vero, ma non è responsabilità della soia, bensì del nostro miope utilizzo. E torniamo allora all'uso come cibo e alla coltivazione in Friuli, dove ha trovato terreni e clima assai confacenti, tant'è che le rese e la qualità della granella, che si ottengono qui, non sono secondi nemmeno ai farmer del Minnesota. La pianta di su è veramente un miracolo di efficienza, può superare il 40% di proteine e il 20% di grassi, resiste al caldo e anche di acqua non ne vuole poi molta. È flessibile sul momento di semina, si può arrivare anche ben lunghi d'estate. L'azoto lo fissa in modo efficiente e lo trasloca tutto nella granella. L'unica cosa, non aspettatevi che ne lasci del suolo per le colture a seguire. Ma come diventa cibo invece che mangime? La coltivazione è del tutto simile e se volete provarla nell'orto usate pure le varietà dei vostri vicini agricoltori professionisti. Potete però trovare anche quelle a ilo più chiaro se volete fare il latte. E vi dico che un chilo di fagioli di soia può produrre 10 litri di latte di soia, pardon, bevanda vegetale. Se non è efficienza questa, e i deliziosi fermentati come il tempè o il miso. Ma oggi vorrei proporvi la soia edamame, dal giapponese fagiolo dello stelo, perché si lessa ancora attaccato adesso. Si tratta del bacello di soia prima della maturazione, quando è ancora fresco e tenero come i piselli. E proprio come i piselli si usa, oppure si possono far cuocere con tutto il bacello e separarli in poscottura. Li trovate già anche al negozio tra i surgelati, però provate a farveli da soli, no? Ci sono delle varietà specifiche per uso edamame, ma si combina anche con le altre. L'interessante è avere dei legumi freschi in piena estate, facili da coltivare, di grande soddisfazione produttiva, però raccoglieteli belli freschi e verdi. Legno, cemento, acciaio, ceramica sono alcuni dei materiali per i contenitori della fermentazione dei mosti, tutti con pregi e controindicazioni, come ci dice il professor Roberto Zironi nella rubrica del vino. L'acciaio inossidabile è compatibile con ogni aspetto della vinificazione, ma la microporosità e l'inerzia termica sono una caratteristica preziosa per favorire la maturazione di alcuni vini e giustificano un ritorno di interesse per i contenitori in legno, in cemento e più recentemente in ceramica. I tini di legno, solitamente di rovere, non solo sono ottimi contenitori per la fermentazione, ma aggiungono anche complessità al vino attraverso l'apporto di sostanze del legno, influenzando così la struttura e il bouquet finale. Tra i diversi cicli di produzione, la pulizia e la sterilizzazione del contenitore sono essenziali per mantenere l'integrità del vino e la sicurezza del processo. Nonostante la complessità e i costi che comporta, la macerazione in tini di legno rimane una scelta prediletta per molti produttori che cercano di arricchire il carattere e la profondità dei loro vini. La macerazione in tini di cemento grezzo è una pratica viticola che ha guadagnato popolarità per la sua capacità di enfatizzare le caratteristiche naturali dell'uva, mantenendo al contempo un ambiente di fermentazione neutro, a differenza del legno che può impartire caratteri aggiuntivi al vino. I tini di cemento grezzo, grazie alla loro porosità, permettono un leggero scambio di ossigeno simile a quello dei tini di legno, ma preservano le caratteristiche del frutto e la mineralità del vino. La forma dei tini in cemento, spesso ovale o conica, è progettata per facilitare il movimento naturale del mosto durante la fermentazione, promuovendo una macerazione efficace e un'estrazione equilibrata dei composti fenolici. Questo movimento naturale riduce anche la necessità di interventi meccanici come il rimontaggio, rendendo il processo più delicato e meno invasivo. I contenitori in ceramica sono apprezzati per la loro neutralità aromatica e la loro porosità. La forma delle anfore di ceramica, spesso ovale o a uovo, è progettata per promuovere un movimento naturale del mosto durante la fermentazione, che aiuta a mantenere le feci in sospensione, migliora l'estrazione di aromi, tannini e coloranti in modo delicato e uniforme, e una volta terminata la fermentazione la forma ne facilita anche la naturale precipitazione. E grazie ai produttori della Georgia, che avevano conservato nei secoli i metodi e le tecniche di produzione dei vini nei quiri, che alcuni pionieri italiani e francesi all'inizio degli anni 2000 hanno reintrodotto nelle diverse aree produttive occidentali l'uso delle anfore. In Italia il primo a sperimentare le tecniche di vinificazione imparate in Georgia alla fine degli anni 90 è il friulano Josco Grauner, che nel 2000 sostituisce molti contenitori della sua cantina con dei quiri georgiani interrati in un'ala della cantina stessa. L'ispettore della forestale Dario Di Gallo, che ci cura la rubrica dei grandi alberi, oggi ci parlerà della centenaria roverella di Plessiva di Medana. Oggi visitiamo un albero, la roverella, molto diffusa nel Colio e nelle aree carsiche, alla cui figura associamo normalmente l'immagine di una pianta dalle dimensioni medie, radicata in terreni magri ed assolati. In realtà questa specie, se non soggetta a tagli troppo frequenti, e lasciata crescere indisturbata, sviluppa, seppur con tempi lunghi, maestose ed articolate chiome emisferiche, sorrette da un fusto basso e articolato, ramificato vicino alla terra, le cui foglie sono molto simili a quella della più nota rovere, ma caratterizzate da una leggera peluria che ricopre fittamente la sua pagina inferiore. E altra caratteristica peculiare, le stesse permangono attaccate a lungo sui rami anche dopo l'autunnale mutazione del colore, che trasforma la chioma in un globo brunito e dorato. Il nostro esemplare si trova nel cortile cintato di un'azienda agricola a Plessiva di Medana, in comune di Cormons, a pochi passi da un piccolo valico di confine con la vicina Slovenia. Il complesso fabbricato, edificato nell'asciutto stile asburgico, è stato strutturato sin dalla sua origine per accogliere le persone, gli animali e le attrezzature necessari alla coltura delle viti e alla produzione vinicola. Il nostro esemplare, dalla circonferenza maggiore ai 4 metri, ha un'età ben superiore ai 200 anni e raggiunge l'altezza di circa 15 metri. Riempie con la sua chioma lo spazio libero fra gli edifici e le sue radici si ancorano al terreno soprastante agli archi in mattoni dell'antica cantina. Nell'universo delle frittelle troviamo anche quelle a base di patate e chifei che a loro volta comprendono svariate versioni locali, come ci dice Roberto Zottar. Dato che a Carnevale ogni fritto vale, anche noi, per perpetuare la tradizione carnascialesca, parleremo di frittelle. Avendo già gustato i krapfen, le frittole piene, cioè quelle nostrane dette anche veneziane, e le frittole di ricotta, oggi vedremo quelle a base di patate. Vi darò la ricetta dei chifei de patate, che sono apprezzati non solo in versione salata come accompagnamento tradizionale di uno stinco di vitello arrosto o di un goulash o anche del pollo fritto, ma anche in versione dolce, cosparsi di zucchero e magari anche di un pizzico di cannella. I chifei, che sono realizzati con l'impasto degli gnocchi di patate poi fritto, rientrano nella grande famiglia delle frittelle di patate, di cui esistono innumerevoli versioni sia semplici sia farcite. In Trentino troviamo i tortei de patate, croccantissimi fuori, morbidi dentro, preparati solo con patate grattugiate molto molto fini e farina, realizzando quasi una pastella e poi fritti. Accompagnano anche un antipasto di salumi al posto del pane. Di fatto sono simili nella ricetta ai rösti di patate svizzeri, che sono invece preparati analogamente ma con patate grattugiate a grana più grossa, patate che possono essere sia crude sia cotte. In Puglia si preparano delle frittelle sempre con patate crude, grattugiate e farina, ma anche con l'aggiunta di uova. I croquet di Napoli vengono realizzati come i nostri chifei con pasta da gnocco, ma sono poi impanati e spesso vengono anche ripieni di mozzarella. È un classico cibo da strada servito nei tipici cuoppi, icone di carta paglia. Con la pasta da gnocchi si realizzano anche i soubric, tipiche frittelle a forma di polpetta della cucina piemontese e francese, che possono fungere da antipasto, contorno o dolce. I chifiletti de patate si differenziano sostanzialmente per la loro forma a ferro di cavallo. Diffusi sull'altipiano carsico, noti anche come chifel cec, trovano testimonianza nei vecchi libri di cucina sloveni e croati. La parola chifel evoca però anche il panino soffice a forma di mezzaluna che i panettieri vendevano insieme con le rosette a forma di fiore e ai saltimpanza, più dolci e oblunghi. Per i chifeletti, lessate un chilo di patate e passatele ancora calde. Quando sono tiepide aggiungete 80 g di burro, 2 uova intere, 3 etti di farina e un pizzico di sale. Con i palmi delle mani formate dei filoncini di pasta della grossezza di un pollice, tagliate dei pezzi da 10 cm e forgiateli a forma di lettera U. Friggeteli in abbondante olio ben caldo e, se serviti come dolce, spolverateli di zucchero. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi in diminuzione venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,20 e 19,40 euro al quintale esclusa, il frumento tra 21 e 21,50, l'orzo peso specifico 62,65 tra 19,30 e 19,80 e la soia tra 43,50 e 44 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 10 euro al quintale e la soia di 9,60. In leggero movimento il comparto dei bovini del macello, dove le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto tra 3 e 3,50 euro al chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,30 e 3 euro. Prezzi diversificati nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi che vengono quotati tra 6,20 e 6,80 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 5 euro, i frisoni tra 2,20 e i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Quotazioni discordanti nel comparto dei suini, con dinamiche rivalutative per i lattonzoli di 30 kg, quotati franco partenza dall'azienda a 4,33 euro il chilo IVA esclusa. Stagnante l'andamento per i grassi da macello, che si quotano a 2 euro al chilo. Nel settore dei prodotti caseari, la Commissione Camerale di Pordenone Udine ha determinato giovedì scorso il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli-Venezia Giulia, quotandolo tra 47,50 e 50,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Nel comparto degli avicunicoli si segnalano nuovi cenni di pesantezza con prezzi in calo. I polli a terra vengono quotati da 1,05 e 1,09 euro al chilo IVA esclusa, le anatre da 3,10 e 3,20, i tacchini maschi da 1,58 e 1,60, le faraone da 3,30 e 3,38, i conigli oltre 2,5 kg da 2,87 e 2,93, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA, Gabriele Fasano, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante e più un breve contributo di climatologia locale. I primi 10 giorni di febbraio hanno visto la prevalenza di tempo molto stabile, con il predominio dell'anticiclone e delle correnti nord-occidentali o occidentali. I tratti distintivi della prima parte della decade sono stati l'inversione termica e la stabilità, con temperature alte in montagna e invece più contenute sulle zone pianeggianti, dove dal 5 all'8 febbraio il ristagno di umidità ha portato nubi basse, foschie e piovigine. Nei primi giorni di febbraio lo zero termico è salito fino a circa 3.000 metri, 1.500 oltre la norma del periodo, e le temperature tra 1.000 e 1.500 metri hanno toccato anche i 10-15 gradi centigradi, restando molto alte anche nei valori minimi. Da venerdì 9 febbraio una depressione atlantica ha cambiato la situazione, portando correnti molto umide meridionali accompagnate a precipitazioni abbondanti o intense, specie sulle Prealpi. Il flusso ancora mite, unito al contesto mite degli ultimi giorni in montagna, ha tenuto alta la quota neve, che fino a sabato 10 non è scesa sotto i 1.500-1.800 metri. Alle quote medio-basse la pioggia battente ha quindi dilavato la già poca neve accumulata. Infine citiamo la temperatura del mare, che a Trieste si mantiene a circa 11 gradi, un valore del tutto eccezionale per il periodo. Per quanto riguarda il prosieguo, la giornata di oggi vedrà ancora cielo coperto con precipitazioni abbondanti o intense, specie sulle Prealpi. Sarà comunque possibile qualche pausa senza precipitazioni, così come localmente qualche rovescio un po' più intenso. La quota della neve sarà in lieve calo, specie in serata, portandosi a circa 1.200-1.400 metri sulle Alpi e 1.300-1.600 sulle Prealpi. Le temperature su pianura e costa rimarranno piuttosto miti, attorno ai 10-12 gradi. La perturbazione proseguirà nella notte e fino al mattino di lunedì, con delle precipitazioni residue che tenderanno però a cessare in giornata. Il cielo sarà più coperto lunedì, ma nella seconda parte della giornata non è da escludere qualche prima schiarita. Il tempo si stabilizzerà definitivamente da martedì e fino a giovedì completo non ci saranno altre precipitazioni. Martedì il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, mercoledì un po' più variabile. Le temperature torneranno ad avere maggiore escursione termica tra giorno e notte, con minime in diminuzione e massime in aumento. Queste ultime potranno toccare anche i 15 gradi in pianura. La tendenza verso la fine della prossima settimana rimane ancora un po' incerta, anche se rimane aperta la possibilità di avere il passaggio di un modesto fronte atlantico verso il fine settimana, con temperature che nel complesso dovrebbero essere intorno o un po' superiori alla media del periodo. Come sempre vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e sulle informazioni della RAI regionale. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Salsvin da San Valentin, par 40 di Isano la fin, ovvero se il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, c'è vento, per 40 giorni non avrà fine. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.